Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Anna camminava con la testa china, giocherellando con le nappine del cappuccio. Il suo viso splendeva ad un vivido fulgore, ma questo fulgore non era allegro. Ricordava il fulgore terribile di un incendio in mezzo a una notte oscura. Vedendo il marito, sollevò la testa e, come svegliandosi, sorrise. «Non sei a letto? Che miracolo!» disse. Si tolse il cappuccio e, senza fermarsi, andò avanti nella toilette. «E ora, Alexei Alexandrovich!» disse poi da dietro la porta. «Anna, ho bisogno di parlare con te.» «Con me?» disse lei con stupore. Uscì dalla porta e lo guardò. «Cos'è mai? Di che cosa si tratta?» domandò sedendosi. «Bene, parliamo dunque se è così necessario. Ma sarebbe meglio andare a dormire.» Anna diceva ciò che le veniva sulle labbra e, ascoltando se stessa per prima, si stupiva della propria capacità di mentire. Come erano semplici, naturali le sue parole e come sembrava che lei avesse semplicemente voglia di dormire. Si sentiva rivestita della corazza impenetrabile della menzogna. Sentiva che qualche forza invisibile la aiutava e la sosteneva. «Anna, io debbo metterti in guardia», disse egli. «Mettermi in guardia? In che cosa?» «Voglio metterti in guardia in questo», disse egli a voce bassa, «che per sconsideratezza e leggerezza tu puoi dare in società il pretesto per parlare di te. La tua conversazione è troppo animata di stasera con il conte Vronsky.» Pronunciò questo nome con fermezza e dopo una tranquilla pausa. «Ha richiamato l'attenzione.» Parlava e intanto guardava gli occhi di lei, ridenti e ora per lui terribili nella loro impenetrabilità, e parlando sentiva tutta l'inutilità delle proprie parole. «Tu sei sempre così», rispose lei come se non lo capisse affatto, e di tutto ciò che lui aveva detto capisse intenzionalmente soltanto le ultime cose. «Ora ti secca che io sia triste, ora ti secca che sia allegra. Non mi sono annoiata, questo ti offende?» Alexei Alexandrovich trasalì e piegò le mani per farle scrocchiare. «Oh, per piacere, non farle scricchiolare, mi dà così fastidio», disse Anna. «Anna, ma sei tu?» disse Alexei Alexandrovich, facendo uno sforzo su se stesso e trattenendo il movimento delle mani. «Ma che cos'è tutto questo?» disse lei con sincera e comica stupefazione. «Che cosa vuoi da me?» Alexei Alexandrovich tacque e con una mano si fregò la fronte e gli occhi. Vedeva che invece di ciò che voleva fare, ossia mettere in guardia sua moglie da uno sbaglio agli occhi del mondo, involontariamente si agitava per ciò che riguardava la coscienza di lei e lottava contro un muro creato dalla sua immaginazione. «Ecco che cosa ho l'intenzione di dirti», continuò in modo freddo e tranquillo, «e ti prego di starmi a sentire. Come sai, io considero la gelosia un sentimento offensivo e umiliante e non mi permetterò mai di farmi guidare da tale sentimento. Ma ci sono determinate leggi di convenienza che non si possono impunemente trasgredire. Quest'oggi io non l'ho notato, ma a giudicare dall'impressione prodotta sui presenti, tutti hanno notato che tu ti comportavi e ti contenevi in un modo che assolutamente non era quello che si può desiderare.» «Decisamente non ci capisco niente», disse Anna stringendosi nelle spalle. «Per lui fa lo stesso», pensò. «Ma in società l'hanno notato e questo lo inquieta.» «Tu non stai bene, Alexei Alexandrovich», soggiunse. Si alzò e avrebbe voluto uscire per la porta, ma egli si mosse in avanti come desiderando fermarla. «Permetti, lasciami parlare.» «Io ti amo, ma io non parlo di me. I protagonisti qui sono nostro figlio e tu stessa. Può darsi benissimo, ripeto, che le mie parole ti sembrino completamente inutili e fuori di luogo. Può darsi che siano suscitate da un mio errore. In tal caso ti prego di scusarmi. Ma se tu stessa senti che vi è anche il minimo fondamento, allora ti prego di riflettere e, se il cuore te lo dice, di esprimermi.» Alexei Alexandrovich, senza neppure accorgersene, non diceva assolutamente ciò che aveva preparato. «Io non ho niente da dire», disse un tratto essa in fretta, trattenendo a fatica un sorriso. «Ma davvero, è ora di dormire?» Alexei Alexandrovich sospirò e senza dir più nulla si diresse in camera da letto. Da quella sera cominciò una nuova vita per Alexei Alexandrovich e per sua moglie. Non accadde niente di speciale. Anna andava come sempre in società. Particolarmente spesso andava dalla principessa Betsy e si incontrava con Vronsky dappertutto. Alexei Alexandrovich vedeva questo, ma non poteva fare nulla. A tutti i suoi tentativi di provocarla ad una spiegazione, lei gli contrapponeva il muro impenetrabile di una sorta d'allegro stupore. Ciò che per quasi un intero anno per Vronsky aveva formato l'unico esclusivo desiderio della sua vita, che aveva preso il posto di tutti i suoi precedenti desideri, ciò che per Anna era stato un sogno di felicità impossibile, orribile e tanto più affascinante, questo desiderio era soddisfatto. Pallido, con la mascella inferiore che gli tremava, egli era in piedi al di sopra di lei e la supplicava di calmarsi, non sapendo neppure lui in che cosa e come. «Anna, Anna!» diceva con voce tremante. «Anna, per amor di Dio!» Ma quanto più forte egli parlava, tanto più in basso essa chinava la sua testa, un tempo orgogliosa, allegra, e ora invece vergognosa. E tutta lei si piegava e dal divano dove era seduta cadeva sul pavimento ai piedi di lui e sarebbe caduta sul tappeto se egli non l'avesse tenuta. «Oh Dio mio, perdonami!» diceva singhiozzando, stringendo le mani di lui al proprio petto. Si sentiva talmente criminale e colpevole che non le restava altro che umiliarsi e chiedere perdono. E nella vita ormai, eccetto lui, non aveva nessuno, sicché era a lui che rivolgeva la sua preghiera di perdono. «Tutto è finito. Io non ho altro all'infuori di te, ricordalo. Non posso non ricordare ciò che è la mia vita. Per un istante di questa felicità...» «Ma quale felicità?» disse essa con repulsione e orrore, e l'orrore involontariamente si comunicò a lui. «Per amor di Dio, non una parola, non una parola di più!» Si alzò in fretta e si allontanò da lui. Essa si diceva: «No, adesso non posso pensare a questo. Dopo, quando sarò più tranquilla.» Ma questa tranquillità non veniva mai. Ogni volta che le si presentava il pensiero di ciò che aveva fatto e di ciò che le sarebbe accaduto e di ciò che doveva fare, la saliva il terrore e scacciava via da sé tali pensieri. «Dopo, dopo», diceva, «quando sarò più tranquilla.» Nel sonno, in compenso, quando non aveva potere sui propri pensieri, la situazione le appariva in tutta la sua mostruosa nudità. Un sogno la visitava quasi ogni notte. Sognava che tutti e due insieme erano suoi mariti, che tutte e due le prodigavano le loro carezze. Alexei Alexandrovich piangeva, baciandole le mani, e diceva: «Com'è bello adesso!» E Alexei Vronsky era lì, e anche lui era suo marito. E lei, meravigliandosi che prima questo le sembrasse impossibile, spiegava a entrambi, ridendo, che così era molto più semplice e che adesso tutti e due erano contenti e felici. Ma questo sogno la opprimeva come un incubo, ed essa si svegliava in preda al terrore. La madre di Vronsky, saputo della sua relazione, dapprima ne fu contenta, sia perché nulla, a suo parere, dava il tocco della perfezione a un giovane brillante quanto una relazione nell'alta società, sia perché quella Karenina che tanto le era piaciuta, che tanto aveva parlato del suo figliuolo, era, a conti fatti, simile a tutte le donne belle e per bene, secondo i concetti della contessa Vronskaya. Ma negli ultimi tempi essa aveva saputo che il figlio aveva rifiutato un posto che gli era stato offerto e che era importante per la sua carriera, solamente allo scopo di restare nel reggimento e potersi vedere con la Karenina. Aveva saputo che per questo erano scontente di lui certe persone altolocate e così aveva cambiato opinione. Non le piaceva inoltre il fatto che, a giudicare da tutto ciò che era a sua conoscenza di quella relazione, non si trattava di quella brillante, graziosa relazione mondana che lei avrebbe approvato, ma di una specie di passione alla Werther, disperata, secondo quel che le raccontavano, che poteva trascinare il figlio a fare delle sciocchezze. Oltre alle occupazioni mondane di servizio, Vronsky aveva un'altra occupazione, i cavalli, dei quali era un appassionato. Proprio in quell'anno erano state indette le corse a ostacoli per ufficiali. Vronsky si era iscritto alle corse, aveva acquistato una cavalla inglese puro sangue e, nonostante il suo amore, era appassionatamente ma dignitosamente preso dalle imminenti corse. Queste due passioni non si contrastavano. Al contrario, egli aveva bisogno di un'occupazione e di un interesse indipendenti dal suo amore, in cui rinfrescarsi e riposarsi dalle impressioni che lo scuotevano troppo. Il giorno delle corse, a Krasnoe Selo, Vronsky andò prima del solito a mangiare una bistecca nella sala comune della mensa del reggimento. Non aveva bisogno di osservare una dieta molto rigorosa, giacché il suo peso era già sui 72 chili stabiliti, ma bisognava non ingrassare e perciò evitava i farinacei e i dolciumi. Sedeva con il soprabito sbottonato sul panciotto bianco, appoggiandosi con entrambi i gomiti sulla tavola e, aspettando la bistecca che aveva ordinato, guardava il volume di un romanzo francese che stava sul piatto. Guardava il libro soltanto per non conversare con gli ufficiali che entravano e uscivano e pensava. Pensava che Anna gli aveva promesso di dargli appuntamento quel giorno dopo le corse, ma non la vedeva da 3 giorni e a causa del ritorno del marito dall'estero non sapeva se quel giorno sarebbe stato possibile o no e non sapeva nemmeno come venirlo a sapere. L'ultima volta si era visto con lei nella villa della cugina Betsy. Alla villa dei Karenin ci andava invece il più raramente possibile. Ora voleva andarci e meditava su come farlo. «Si capisce. Dirò che Betsy mi ha mandato a domandare se lei verrà alle corse. Si capisce. Andrò», decise fra sé, sollevando la testa dal libro. E, vivamente immaginandosi la felicità di vederla, si illuminò in viso. «Vronsky!» gridò qualcuno mentre egli stava già uscendo nel vestibolo. «Cosa?» «Dovresti tagliarti i capelli, se no ti pesano, specie nella pelata!» Effettivamente Vronsky cominciava a diventare calvo prima del tempo. Egli scoppiò a ridere gaiamente, mettendo in mostra i suoi denti regolari e, calcato il berretto sulla calvizie, uscì e montò in carrozza. «Alla scuderia!» disse. La scuderia provvisoria, una baracca di assi, era stata costruita proprio accanto all'ippodromo e lì doveva essere stato condotto il giorno prima il suo cavallo. Lui non l'aveva ancora visto. In quegli ultimi giorni, per farlo muovere, non l'aveva montato di persona, ma ne aveva incaricato l'allenatore. Adesso voleva accertarsi sulle condizioni in cui era arrivato e in cui si trovava il suo cavallo. Appena scese dalla carrozza, il suo garzone di scuderia, Groom, il ragazzo, come si dice, riconosciuta già da lontano la sua vettura, aveva chiamato l'allenatore. L'asciutto inglese in stivali alti e giacchetta corta, con un ciuffo di peli lasciati crescere soltanto sotto il mento, gli venne incontro con il passo incerto dei fantini, tenendo i gomiti larghi e dondolandosi. «Allora, come va, Frufru?» domandò Vronsky in inglese. «All right, sir. Tutto bene, signore», proferì in qualche punto dentro la gola la voce dell'inglese. «È meglio che non andiate», aggiunse sollevando il cappello. «Ho messo la museruola e il cavallo è inquieto. È meglio che non andiate, questo agita il cavallo». «No, io ci vado, voglio dare un'occhiata». «Andiamo», sempre senza aprire la bocca e accigliandosi, disse l'inglese. Agitando i gomiti, si avviò con il suo passo dinoccolato. Vronsky entrò nel box debolmente illuminato da una sola piccola finestruzza. Nel box, calpestando con le zampe la paglia fresca, stava una cavalla baia scura. Dopo essersi guardato intorno nella penombra del box, involontariamente egli abbracciò di nuovo con un solo sguardo generale tutte le forme della sua amata cavalla. Frufru era una cavalla di media altezza e di forme non perfette. Era minuta di ossatura. Benché il suo torace sporgesse fortemente, il petto era stretto. Il suo posteriore era un po' basso e le zampe anteriori, ma specialmente quelle posteriori, erano fuori a piombo. I muscoli delle zampe posteriori e anteriori non erano particolarmente grossi, ma in compenso il petto della cavalla era notevolmente profondo, cosa che ora colpiva in special modo, dato che essa era così asciutta dopo l'allenamento. Gli stinchi sotto i ginocchi non sembravano più grossi di un dito se visti di fronte, ma erano in compenso straordinariamente larghi se visti di lato. Eccetto le costole, era come se fosse tutta schiacciata nei fianchi e allungata in profondità. Ma aveva in sommo grado una qualità che faceva dimenticare tutti i difetti. Questa qualità era il sangue, quel sangue che si fa sentire, secondo l'espressione inglese. I muscoli nettamente emergenti sotto il reticolo delle vene, coperte dalla pelle sottile, mobile e liscia come il raso, parevano duri come osso. La testa asciutta, con gli occhi sporgenti, scintillanti e allegri, si dilatava verso le froge frementi, rosse di sangue dentro le cartilagini. In tutta la figura, e specialmente nella sua testa, c'era un'espressione risolutamente energica e nello stesso tempo tenera. Era una di quelle bestie che sembra non parlino solamente perché il meccanismo della loro bocca non glielo permette. A Vronsky, almeno, sembrò che essa capisse tutto ciò che egli adesso sentiva guardandola. Appena Vronsky era entrato da lei, essa aveva profondamente inspirato e, torcendo l'occhio sporgente così che la cornea si era iniettata di sangue, aveva guardato dalla parte opposta chi era entrato, scuotendo la museruola e poggiandosi leggermente ora su una, ora sull'altra zampa. «Ecco, vedete com'è agitata», disse l'inglese. «Oh, cara, cara», disse Vronsky, avvicinandosi alla cavalla e parlandole come una carezza. Ma quanto più si avvicinava, tanto più essa si agitava. Solo quando egli si avvicinò alla sua testa, lei a un tratto si quietò e i suoi muscoli trasalirono sotto il fine tenero pelame. Vronsky le carezzò il collo robusto, aggiustò sull'alto garrese un ciuffo della criniera caduto dall'altra parte e si accostò con il viso alle narici dilatate, sottili come un'ala di pipistrello. Lei aspirò ed espirò rumorosamente l'aria dalle narici tese, trasalendo. Appoggiò l'orecchio aguzzo e protese il forte labbro nero verso Vronsky, come desiderando afferrarlo per la manica. Ma ricordandosi della museruola, la scosse e ricominciò da capo ad appoggiarsi prima sull'una e poi sull'altra delle sue zampe tornite. «Calmati, cara, calmati», disse egli, dopo averla ancora carezzata con la mano sulla groppa, e con la gioiosa convinzione che la cavalla fosse nelle condizioni migliori, uscì dal box. L'agitazione della cavalla si era comunicata anche a Vronsky. Egli sentiva che il sangue gli affluiva al cuore e che anche lui, come la cavalla, aveva voglia di muoversi, di mordere. Era una sensazione di paura e di allegria. «Bene, allora io spero in voi», disse all'inglese, «e alle 6:30 sul posto». Elsa Galbato ha letto Anna Karenina di Lev Tolstoj. Riduzione del testo di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.